arrivi qui da noi, sono tutti eroi della città di Glita. Lavoriamo insieme, ci vogliamo bene, della città di Glita. Yubi, Wayne, Dickon, Tipe e Fred saranno lì con te. Sono pronti ad imparare tutto quello che c'è. È città speciale, posto ideale per incontrare gli eroi. Quanti bei momenti, tutti divertenti nella città di Glita. È una vera scuola, dove il tempo vola, è la città di Glita.